Il cervo malato da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Nel paese dei cervi un ricco cervo cadde malato. Accorrono gli amici al mesto capezzale a visitarlo e vogliono sollevarlo o almeno consolarlo. Ma, cari amici, esclama l'animale, che già si secca della cortesia, cessi il pianto e lasciate che io me ne vada, come van tutti, anch'io per la mia strada. Ma niente affatto, quella processione non si partì dal letto, se non ebbe compiuta la missione di togliere il respiro al poveretto. E quando ebbe compiuto il suo dovere, andò, ma volle bere prima alla fonte e pascolar nel prato del povero malato. E bevi e mangia, ed erba mangia e strame, non lasciarono al cervo che la via o digiunar oppure morir di fame. Così fanno a questi lumi anche i medici e coloro che ti curano la coscienza e ti costano un tesoro. O che tempi, o che costumi, ma che far, ci vuol pazienza. Fine della favola, il cervo malato. Questa registrazione è di dominio pubblico.